Signore e signori, bentrovate e bentrovati ad Aspettando l'Eurovision Song Contest 2021. 39 canzoni si danno battaglia in rappresentanza di 39 nazioni sul palcoscenico della Ahoy Arena di Rotterdam il 18, 20 e 22 maggio prossimi venturi. Siamo arrivati a metà della settimana delle prove, tutte le canzoni semifinaliste hanno già potuto sperimentare il palco, le 5 canzoni dei Big Five e l'Olanda, paese ospitante, non hanno ancora invece provato e cominceranno domani. Ed è proprio da Rotterdam che trasmetto in un ex magazzino portuale sull'isola Guglielmina adattato ad albergo. Oggi abbiamo finito le semifinali, passiamo alle canzoni finaliste di diritto e cominciamo dalla Spagna. Lui si chiama Blas Cantó, l'anno scorso non cantò e quest'anno canterà. La sua canzone si chiama Voy a quedarme, un brano commovente e malinconico che vuol dire rimango. Quédate esta noche para ver amanecer, para sentir tu voz acariciándome. Quédate un segundo más, no hay nada que perder, mientras dibujo más memorias en tu piel. He bajado el cielo para descubrir que se esconde en tu mirada, solo unos centímetros de mí. Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer. Voy a besarte muy lento como la primera. Lanciato dalla boy band gli Aurin, che per quasi 10 anni ha vinto tutto quasi in Spagna, Blas Cantó è diventato solista e ha cominciato subito a confermare la popolarità. Il suo primo album è stato primo in classifica e disco di platino. Ha imparato a cantare evidentemente all'Accademia dei Cugini di Campagna, in spagnolo Los Sobrinos de Campagna, si sente anche dal falsetto, a metà appunto tra i Cugini di Campagna e i Bee Gees. Tante versatile, ha vinto anche l'edizione spagnola di Tale Quale Show, imitando i Cugini di Campagna probabilmente, e la Spagna lo aveva selezionato già nel 2020, però l'anno scorso Blas Cantó appunto non cantò. Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer. Riconfermato nel 2021, la Spagna è alla disperata ricerca di un risultato dignitoso, perché a parte 2 decimi posti nel 2012 e nel 2014, il miglior piazzamento nelle zone alte di questo millennio è il 6° posto di David Civera nel 2001, 20 anni fa. Negli ultimi 5 anni la Spagna non è riuscita mai a entrare neanche nei primi 10, nei primi 20. Lascia la paura alle spalle, canta Blas Cantó. Io rimango qui e prometto di amarti più di ieri e ti bacerò molto lentamente come la prima volta. Blas Cantó ha 30 anni, canta per la Spagna a Rotterdam 2021 e ci canta Voy a quedarme. Porque yo voy a quedarme. Canali, musei, turismo trasgressivo, patate sono solo alcuni dei motivi per cui l'Olanda è famosa in tutto il mondo. Ma ciò che fa pensare immediatamente ai Paesi Bassi sono sicuramente i tulipani, simbolo per eccellenza del paese. Benché venga considerato come un prodotto tipicamente olandese, il tulipano venne importato dalla Turchia nel 500, raggiunse velocemente un successo commerciale incommensurabile e 100 anni più tardi si creò una richiesta tale da poter essere definita la prima bolla speculativa della storia del capitalismo. Si chiama bolla dei tulipani perché nel XVII secolo un singolo bulbo di tulipano arrivò a costare più del reddito annuale medio di un olandese, tanto che i bulbi di questo fiore venivano scambiati con terreni e capi di bestiame. A metà del 600 i prezzi calarono notevolmente e questo comportò una crescita nei volumi di produzione. Il fiore aveva trovato terreno fertile negli umidi polveri olandesi, le terre rubate al mare. Ad oggi la vendita dei bulbi di tulipano rappresenta un settore vitale per l'economia dei Paesi Bassi. È venuto il momento però di prendere la macchina del tempo e di ripercorrere la carriera del nostro paese, dell'Italia, all'Eurovision Song Contest. Dopo un'assenza di 14 anni siamo tornati. nel 2011 e abbiamo conquistato subito un secondo posto contro tutte le aspettative. Lui è Rafa Gualazzi, Follia d'amore, Madness of Love. Dire sì, dire mai, non è facile, sai. And all the world around you seems to slip and disappear. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei. I know for certain I won't bother you with nostalgia. Ma vedrai un altro me in un sogno fragile. Riderai come se non ti avessi amato mai. Cercherai un altro me oltre l'ombra di un caffè. Troverai solo me. Se mi fermo un attimo io non so più. E quando l'Italia deve tornare all'Eurovision, si chiamava ancora Eurofestival allora, per noi giornalisti addetti ai lavori italiani, è proprio quell'anno che cominciamo a chiamarla Eurovision, il cantante deve essere selezionato tra i partecipanti al Festival di Sanremo, ma le case discografiche tentennano, non sanno a che cosa vanno incontro. E Caterina Caselli e la Sugar accettano la convocazione della RAI per Rafa Gualazzi, vincitore della sezione Sanremo Giovani 2011. È una scommessa vincente, arriva il secondo posto dietro l'Azerbaigian e la canzone entra nelle classifiche di mezza Europa e conquista la vetta delle chart jazz in 8 paesi. È una canzone che teorizza che per comprendere l'amore occorra considerarlo una sorta di follia, un po' come pensava Platone. D'altra parte noi siamo qua a Rotterdam, la città di Erasmo, l'elogio della follia, il suo più famoso libello. Il protagonista di Madness of Love invita l'amata a passare insieme questo confine dove lui potrà mostrarsi più fragile e lei al contrario trasfigurata e invincibile. Questo ritmo jazz, questo jazz debitore ragtime, quello stride piano che si ascoltava nei locali fumosi e nei bordelli. Un amore rinnovato che diventa una cosa completamente nuova, come se i due protagonisti non si fossero mai amati in precedenza. Rafael Gualazzi, Foglie d'amore, Madness of Love, all'Eurovision Song Contest di Düsseldorf, dove conquistò 10 anni fa esattamente il secondo posto. Signore e signori, avete ascoltato da Rotterdam, nei Paesi Bassi, da questo mio studio sull'isola Guglielmina, proprio nel centro della città, aspettando l'Eurovision Song Contest 2011. 39 canzoni si danno battaglia in rappresentanza di 39 nazioni sul palco della Ahoy Arena di Rotterdam. Oggi abbiamo ascoltato la Spagna con Voy a quedarme di Blas Cantó. Abbiamo fatto un viaggio nel passato vedendo il nostro, ascoltando il nostro ritorno in gara dopo un'assenza di 14 anni con Rafael Gualazzi e la sua follia d'amore Madness of Love che ci fece conquistare subito il secondo posto. Domani continueremo a parlare dei Big Five, sarà il turno della Germania con Jendrik e I Don't Feel Hate.